Tornato al punto dove aveva lasciato gli altri, li trovò in attesa e i bambini lanciarono strilli di sollievo. E Wang Lung capì che in quel luogo straniero erano stati presi dal terrore. Solo il vecchio guardava ogni cosa con piacere e stupore e sussurrò a Wang Lung: "Lo vedi? Com'è grassa la gente del sud? Com'è pallida e oleosa la loro pelle? Sicuramente mangiano tutti i giorni carne di maiale." Ma nessuno passando guardava Wang Lung e la sua famiglia. Uomini andavano e venivano lungo la strada lastricata che portava in città, impegnati e assorti, e non guardavano mai i mendicanti. E ogni tanto una carovana di asini arrivava scalpicciando con i piccoli zoccoli che si adattavano perfettamente ai sassi ed erano carichi di cesti di mattoni per costruire case e grandi sacchi di grano sopra i dorsi dondolanti. In coda a ogni carovana, in groppa all'ultima bestia, c'era il conducente con una grande frusta che gridando faceva schioccare con un rumore spaventoso sul dorso degli animali. E passando davanti a Wang Lung, ogni conducente gli lanciava un'occhiata sprezzante e altezzosa, e nemmeno un principe avrebbe potuto avere un'aria più altezzosa di quei conducenti con le loro giacche ruvide e grezze, quando passavano davanti al gruppetto di persone ferme all'angolo della strada con l'espressione stupita. Wang Lung e la sua famiglia apparivano così straniti che ogni conducente nel vederli faceva schioccare con particolare gusto la frusta nell'istante in cui passava loro davanti e quello schiocco secco ed esplosivo inferto all'aria li faceva sobbalzare e i conducenti nel vederli sussultare ridevano sguaiati. Quelle 2 o 3 volte che successe, Wang Lung si sentì afferrare dalla rabbia e si mise a cercare un posto dove sistemare la sua baracca. C'erano già altre baracche addossate alla muraglia dietro di loro, ma cosa ci fosse al di là non lo sapeva nessuno e non c'era modo di saperlo. Si estendeva lunga e grigia e altissima, e le piccole baracche di stuoie erano attaccate alla sua base come pulci al dorso di un cane. Wang Lung osservò le baracche e cominciò a rigirare le stuoie per sistemarle alla stessa maniera, ma erano malfatte e rigide, composte di canne spezzate, ed era già disperato quando Lan disse: "So io come si fa, me lo ricordo dall'infanzia." Mise a terra la bambina e tirò di qua e di là le stuoie, formando un tetto tondo che arrivava a terra, alto abbastanza perché un uomo potesse starvi seduto senza toccarne la cima, e sopra i bordi delle stuoie che toccavano terra, mise dei mattoni che erano sparsi lì attorno e mandò i bambini a raccoglierne altri. Quando fu pronta, vi entrarono e con una stuoia che Olan era riuscita a non usare, fecero un pavimento e si sedettero ed ebbero un riparo. Così seduti, guardandosi l'un l'altro, sembrava loro quasi impossibile aver lasciato il giorno prima la casa e i campi e che si trovassero a un centinaio di miglia da lì. Era una distanza così grande che avrebbe richiesto settimane di cammino, durante il quale alcuni di loro sarebbero morti prima di arrivare. Poi la sensazione generale di abbondanza in quel ricco paese, dove nessuno sembrava patire mai la fame, li colse e quando Wang Lung disse: "Andiamo a cercare le mense pubbliche", si alzarono quasi allegramente e uscirono, e questa volta i bambini sbattevano le bacchette contro le loro ciotole mentre camminavano, perché ci sarebbe stato presto qualcosa con cui riempirle. E scoprirono presto perché le baracche erano costruite accanto a quella lunga muraglia. Poco dopo il suo termine a settentrione c'era una via, e lì molte persone camminavano con ciotole e secchi e recipienti di latta, tutti vuoti. E quelle persone andavano alle mense dei poveri in fondo alla strada, poco lontano. E così Wang Lung e la sua famiglia si mescolarono agli altri e insieme a loro arrivarono infine a 2 grandi costruzioni fatte di stuoie. E c'era una grande folla davanti al lato aperto di quelle costruzioni. Dietro ogni costruzione c'erano cucine fatte di terra, ma più grandi di qualsiasi stufa Wang Lung avesse mai visto, e sopra vi posavano calderoni di ferro grandi come piccoli stagni. E quando i grossi coperchi di legno venivano sollevati, si vedeva ribollire il buon riso bianco e si levavano nuvole di vapore fragrante. Per quelli che lo annusavano, l'odore fragrante del riso era il più dolce che avesse mai sfiorato le loro narici, e la gente premeva avanti in massa chiamando a gran voce, e le madri gridavano con rabbia e paura che i loro bambini venissero calpestati, e i neonati piangevano, e gli uomini che aprivano i calderoni ruggivano: "Su, su, ce n'è abbastanza per tutti, ognuno al suo turno." Ma niente poteva fermare la massa di uomini e donne affamati che lottavano come bestie fin quando tutti ebbero avuto il loro cibo. Preso nel mezzo, Wanlung non poté fare altro che stringersi al padre e ai due bambini e, trascinato poi verso il grosso calderone, tese la sua ciotola e, quando fu piena, vi depose il suo centesimo e poté solo restare lì saldo per non farsi spazzare via prima che tutto fosse terminato. Arrivati nuovamente alla strada, si misero a mangiare il loro riso. Wanlung si sentiva pieno e nella sua ciotola ce n'era ancora un po' e disse: «Questo me lo porto a casa e lo mangio stasera». Ma un uomo lì accanto, una specie di guardia dal momento che indossava un abito speciale blu e rosso, disse bruscamente: «No, puoi portarti via solo quello che hai dentro la pancia». E Wang Lung si stupì e disse: «Beh, se ho pagato il mio centesimo, cosa ti importa se me lo porto dentro o fuori di me?» Allora l'uomo disse: «Ci vuole questa regola, perché ci sono persone dal cuore così duro che vengono qui e comprano il riso per i poveri. Un centesimo non basterebbe infatti per dar da mangiare così a nessuno. E si portano il riso a casa e lo danno ai maiali, e il riso è per gli uomini e non per i maiali». Quang Lung lo ascoltò sorpreso ed esclamò: «C'è gente crudele a questo modo?» E poi disse: «Ma perché qualcuno dà tutto questo ai poveri e chi è?» Allora l'uomo rispose: «Sono i ricchi e i nobili della città. C'è chi lo fa per compiere una buona azione per il futuro, cosicché salvando vite possa guadagnarsi meriti e andare in paradiso, e c'è chi lo fa per giustizia, in modo che la gente parli bene di lui». «Beh, qualunque sia il motivo, è in ogni caso una buona azione», disse Wang Lung, «e qualcuno lo fa sicuramente perché ha buon cuore». E vedendo che l'uomo non rispondeva, aggiunse a propria difesa: «Qualcuno almeno c'è?» Ma l'uomo era stanco di parlare con lui e gli voltò le spalle canterellando una pigra melodia. I bambini gli diedero qualche strattone e allora Wang Lung li riportò alla baracca che avevano costruito e si stesero e dormirono fino al mattino dopo, perché era la prima volta dall'estate che mangiavano a sufficienza e con il senso di sazietà gli afferrò il sonno. Il mattino dopo ebbero bisogno di altri soldi perché avevano speso l'ultima moneta di rame per il riso del mattino. Wang Lung guardò Olan, non sapendo bene cosa fare, ma senza la disperazione con cui l'aveva guardata nei loro campi vuoti e deserti. Qui, con l'andirivieni di gente ben nutrita lungo le strade, con carne e verdura nei mercati, con il pesce che nuotava nelle vasche del mercato del pesce, non era proprio possibile che un uomo e i suoi figli morissero di fame. Non era come nel loro paese, dove nemmeno l'argento poteva comprare il cibo perché non ce n'era, e Olan gli rispose con fermezza, come se quella fosse la via che aveva sempre conosciuto: «Io e i bambini possiamo mendicare, e anche il vecchio. I suoi capelli grigi commuoveranno chi non vorrà dare niente a me». Chiamò allora a sé i due bambini che, come fanno i bambini, avevano dimenticato tutto e sapevano solo di avere nuovamente da mangiare e che si trovavano in un posto straniero. Correvano verso la strada e fissavano tutto quel che passava di lì e disse loro: «Prendete ognuno la sua ciotola e tenetela così e dite così». Prese in mano la propria ciotola vuota, la tese e parlò con voce supplichevole: «Siate buono, signore, siate buona, signora. Siate buoni, una buona azione per guadagnarvi il paradiso, una monetina, le monetine di rame che buttate via, date da mangiare a un bambino che ha fame». I bambini la guardavano con gli occhi sgranati e anche Wanlung. Dove aveva imparato a supplicare così? Quante cose non conosceva di quella donna. Lei rispose al suo sguardo e disse: «Supplicavo così quando ero bambina e così mangiavo. È stato in un anno del genere che mi hanno venduta come schiava». Allora il vecchio, che stava dormendo, si svegliò e gli diedero una ciotola e tutti e quattro andarono sulla strada a mendicare. La donna cominciò a lanciare richiami e ad agitare la ciotola davanti a ogni passante. Stretta contro il petto nudo, teneva la bambina, che dormiva con la testa che sobbalzava a ogni suo movimento, mentre correva qua e là con la ciotola tesa davanti a sé. E mendicando indicava alla bambina ed esclamava con forza: «Date qualcosa, buon signore, buona signora, questa bambina sta morendo, abbiamo fame, fame». La bambina sembrava davvero morta, la testa ciondolante, e ci furono alcuni, pochi, che le gettarono malvolentieri qualche monetina. I bambini invece cominciarono dopo un po' a prendere la cosa come un gioco. Il più grande si vergognava e sogghignava impacciato mentre mendicava. La madre allora se ne accorse, li trascinò nella baracca e diede loro un sonoro schiaffo sulle mascelle e li rimproverò con rabbia. Dite di morire di fame e intanto ridete? Pazzi sconsiderati, moriteci pure di fame! E li schiaffeggiò più volte ancora fin quando le mani le fecero male e le lacrime correvano liberamente sulle facce dei bambini che singhiozzavano. E li mandò fuori di nuovo dicendo: Ecco, adesso siete pronti a mendicare, ne avrete ancora se ridete un'altra volta. Quanto a Wang Lung, girò per le strade e chiese qui e là fin quando trovò un posto che affittava a rickshaw. Entrò e ne prese uno per la giornata, al prezzo di un mezzo pezzo d'argento da pagare quella sera, e lo trascinò in strada. Mentre tirava il traballante veicolo di legno a due ruote, gli sembrava che tutti lo guardassero, credendolo un matto. Era così goffo fra le due aste, come un bue aggiogato per la prima volta all'aratro, e quasi non riusciva a camminare. Eppure doveva correre, se voleva guadagnarsi da vivere, perché qui e là, e dappertutto, nelle strade di quella città, degli uomini correvano, tirando altri uomini. Andò in una stretta strada laterale, dove non c'erano negozi, ma solo porte di case, chiuse e private. E andò su e giù per un po', in modo da impratichirsi, e proprio quando stava disperatamente per dirsi che avrebbe fatto meglio a mendicare, un vecchio con un paio di occhiali, vestito come un maestro, uscì di casa e lo chiamò. Wang Lung cominciò a dirgli che era troppo nuovo del mestiere per poter correre, ma il vecchio era sordo, infatti non sentì nulla e gli fece solo tranquillamente segno di abbassare le stanghe e di lasciarlo salire. Wang Lung obbedì, non sapendo cos'altro fare, e sentendovisi costretto dalla sordità del vecchio e dal suo bell'abito e dai modi di uomo istruito. Poi il vecchio, seduto ben dritto, disse: Portami al tempio di Confucio. Ed eccolo là, seduto, dritto e calmo. E la sua calma sembrava non ammettere domande, così Wang Lung si mise in movimento, come vedeva che facevano gli altri, sebbene non avesse la più pallida idea di dove si trovasse il tempio di Confucio. Ma spingendosi avanti chiedeva, e siccome occorreva passare per strade affollate, con gli ambulanti che andavano avanti e indietro con i loro cesti e le donne dirette al mercato, e poi carrozze tirate da cavalli e molti altri veicoli come quello che lui stava tirando, e tutti si accalcavano così che non c'era modo di correre, Wang Lung camminava più velocemente che poteva, sempre avvertendo gli strani sobbalzi del carico dietro di lui. Era abituato ai carichi sulla schiena, ma non a tirare. E prima che apparissero le mura del tempio, le sue braccia erano doloranti e le mani piene di vesciche perché le stanghe premevano su punti che la zappa non toccava. Il vecchio maestro scese dal rickshaw quando Wang Lung, raggiunto il portone del tempio, lo abbassò e, infilata la mano nell'abito all'altezza del petto, ne tirò fuori una monetina d'argento e la diede a Wang Lung dicendo: Non pago mai più di così, ed è inutile lamentarsi. E a quelle parole si girò ed entrò nel tempio. Wang Lung non aveva pensato di lamentarsi, perché non aveva mai visto quella moneta e non sapeva a quanti centesimi equivalesse. Entrò in un negozio di riso che cambiava denaro e per la moneta ricevette 26 centesimi. E Wang Lung si stupì della facilità con cui al sud arrivavano i soldi. Ma un altro conduttore di rickshaw gli si fermò accanto e mentre Wang Lung contava si chinò verso di lui e disse: Solo 26? Quanto lontano l'hai tirato il vecchio? E quando Wang Lung glielo disse esclamò: Ah, quello sì che è un vecchio furbo, ti ha dato solo la metà della tariffa giusta. Quanto a lungo hai discusso prima di partire? Non ho discusso, disse Wang Lung, mi ha detto vieni e io sono andato. L'altro lo guardò con aria compassionevole. Eccolo qua, lo scemo di campagna con tanto di codino, gridò rivolto agli astanti. Uno gli dice vieni e lui va, e non chiede nemmeno questo cretino, figlio di cretini, quanto mi dai se vengo. Devi saperlo, caro il mio cretino, che solo gli stranieri bianchi si possono prendere senza discutere. Si inalberano come niente, ma quando dicono vieni puoi andare e fidarti perché sono così stupidi che non conoscono il vero prezzo delle cose. Ma fanno correre l'argento fuori dalle tasche come fosse acqua, e tutti ascoltavano e ridevano. Wang Lung non disse niente. Era vero che si sentiva molto umile e ignorante in quella folla di gente di città e trascinò via il suo veicolo senza una parola in risposta. Comunque basterà far mangiare i miei figli domani, si disse ostinato. E poi si ricordò che doveva pagare l'affitto del veicolo quella sera e che gliene mancava ancora la metà. Durante la mattinata ebbe ancora un passeggero con cui discusse e concordò il prezzo e nel pomeriggio lo chiamarono altri due. Ma quella sera, quando contò tutti i soldi nella mano, aveva solo un centesimo oltre l'affitto del rickshaw e tornò alla sua baracca molto amareggiato, dicendosi che per aver faticato più che in una giornata nei campi al momento del raccolto aveva guadagnato solo un centesimo di rame. Poi fu sommerso dal ricordo della sua campagna. Non gli era venuta in mente un solo istante in quella strana giornata, ma adesso il pensiero della sua campagna laggiù, lontana, questo era vero. Ma a che lo aspettava? Ed era sua. Lo riempì di pace e così tornò alla baracca. Quando entrò, vide che per la sua giornata passata a mendicare, Olan aveva ricevuto 40 monetine, cioè meno di 4 centesimi, e il maggiore dei bambini aveva 8 monetine e il piccolo 13, e tutto insieme bastava per comprare il riso al mattino. Ma quando misero il guadagno del piccolo insieme al resto, lui si mise a gridare che voleva la sua parte e amava i soldi che aveva mendicato, li tenne stretti nella mano mentre dormiva quella notte e non poterono prenderglieli fin quando lui stesso li diede in cambio del suo riso. Il vecchio invece non aveva raccolto niente. Per tutto il giorno era rimasto ubbidiente sul bordo della strada, ma non aveva mendicato. Dormiva e si svegliava e guardava quel che gli passava davanti e quando era stanco si riaddormentava. E siccome apparteneva alla generazione degli anziani non lo si poteva rimproverare. Vedendo che le sue mani erano vuote, disse soltanto: «Ho arato e ho seminato e ho raccolto e così ho riempito la mia ciotola di riso. E oltre a questo ho generato un figlio e i figli del figlio». E con ciò confidava come un bambino che sarebbe stato nutrito perché aveva un figlio e dei nipoti. 12. Ora che i morsi terribili della fame di Wang Lung erano passati e vedendo che i suoi figli avevano quotidianamente da mangiare, sapendo che ogni mattina ci sarebbe stato del riso e che grazie alla fatica delle sue giornate e a quel che riusciva a mendicare Olan c'era abbastanza per pagarlo, la vita lì smise di paregli estranea e cominciò a sentire cos'era la città ai cui margini si era aggrappato. Correndo tutti i giorni per le strade imparò a conoscerla e vide svariate cose delle sue parti segrete. Imparò che al mattino le persone che portava sul suo veicolo andavano al mercato, se erano donne, mentre se erano uomini andavano alle scuole e alle case di commercio. Ma non aveva modo di sapere che genere di scuole fossero, solo che si chiamavano la Grande Scuola del Sapere Occidentale o la Grande Scuola Cinese, perché non aveva mai oltrepassato i cancelli e sapeva bene che se fosse entrato qualcuno sarebbe venuto a chiedergli cosa ci faceva lì e non sapeva cosa fossero le case di commercio dove portava gli uomini, perché una volta presi i soldi non aveva bisogno di sapere altro. E di sera sapeva di portare gli uomini alle grandi case da tè e ai luoghi di piacere, quel piacere che è aperto e si riversa sulle strade nel suono della musica e del gioco con pezzi di avorio e bambù su una tavola di legno, e quel piacere che è segreto e silenzioso, nascosto dietro mura. Ma Wang Lung non conosceva direttamente nessuno di quei piaceri, perché i suoi piedi superavano solamente la soglia della sua baracca. E la sua strada terminava sempre davanti a un portone. Nella ricca città viveva estraneo come un ratto in casa di un ricco, che si nutre degli avanzi buttati via e si nasconde ora qui ora là e non è mai parte della vera vita di quella casa. Avvenne così che, sebbene 100 miglia non siano mille e la via per terra non sia mai lunga come quella per acqua, Wang Lung e sua moglie e i suoi figli fossero tuttavia come stranieri in quella città del sud. È vero che la gente che girava per le strade aveva gli occhi e i capelli neri, come lui e la sua famiglia, come tutti gli altri nel paese in cui era nato, ed è vero che la lingua della gente del sud si poteva capire anche se con difficoltà, ma Lan Wei non è il Jiangsu. Nel Lan Wei, dove era nato Wang Lung, la lingua è lenta e profonda e sgorga dalla gola. Ma nella città del Jiangsu, dove viveva ora, la gente parlava a sillabe che uscivano come schegge dalle labbra e dalla punta della lingua. E mentre i campi di Wang Lung portavano a lenta e comoda maturazione 2 volte all'anno grano e riso e un po' di grano turco, fagioli e aglio, qui, nelle fattorie intorno alla città, si stimolava il suolo spandendovi senza sosta fetidi concimi di rifiuti umani, per costringerlo a produrre in fretta svariate verdure oltre al riso. Nel paese di Wang Lung, se un uomo aveva una buona pagnotta di grano con dentro un germoglio d'aglio, questo era un buon pasto e non c'era bisogno d'altro. Ma qui la gente voleva polpette di maiale e germogli di bambù, castagne stufate con pollo e interiora di oca e verdure di ogni tipo. E se gli passava davanti un buon uomo onesto che ancora mandava l'odore dell'aglio del giorno prima, loro sollevavano il naso ed esclamavano: «Ecco qui uno del nord, puzzolente e col codino». L'odore d'aglio induceva persino i negozianti di stoffe ad aumentare il prezzo della tela azzurra, come avrebbero fatto con uno straniero. Ma il piccolo villaggio di baracche, aggrappate al muro, non divenne mai una parte della città o della campagna che si stendeva al di là. E una volta Wang Lung ascoltò un giovane che arringava una folla all'angolo del tempio di Confucio, dove chiunque può stare se ha il coraggio di parlare a voce alta e schietta. E il giovane diceva che la Cina aveva bisogno di una rivoluzione e doveva insorgere contro gli odiati stranieri. Wang Lung si spaventò e si allontanò furtivamente, credendo di essere lo straniero contro il quale il giovane parlava con tanta veemenza. E un altro giorno, sentendo parlare un altro giovane, quella città infatti era piena di giovani che parlavano, che all'angolo della sua strada diceva che in quei tempi il popolo della Cina doveva unirsi e educare se stesso, Wang Lung non pensò che qualcuno potesse parlare a lui. Fu solamente un giorno in cui si trovava sulla strada dei mercati della seta, alla ricerca di un passeggero, che capì meglio di quanto avesse fatto in precedenza che in quella città c'erano persone più straniere di lui. Quel giorno passò davanti alla porta di un negozio da cui a volte le signore uscivano dopo aver comprato della seta e a volte riusciva ad assicurarsene una che lo pagava meglio della maggior parte della gente. E quel giorno qualcuno uscì all'improvviso, una creatura di un tipo mai visto prima. Non aveva idea se fosse un uomo o una donna, ma era alta e portava una veste dritta e nera, fatta di una stoffa ruvida, e attorno al collo aveva la pelle di un animale morto. Quando gli passò davanti, quella persona, uomo o donna che fosse, gli indicò bruscamente di abbassare le stanghe, e così fece, e quando si fu nuovamente raddrizzato, sbalordito per quel che gli era successo, in un cinese stentato quella gli disse di andare alla strada dei ponti. Wang Lung cominciò a correre in tutta fretta, senza quasi sapere cosa stesse facendo, e a un certo punto chiamò un altro conducente che per caso conosceva. «Guarda chi è che sto portando!» E l'uomo gli gridò: «Una straniera, una donna americana! Sei ricco!» Ma Wang Lung correva più in fretta che poteva, per paura della strana creatura alle sue spalle, e quando raggiunse la strada dei ponti era esausto e in un bagno di sudore. Allora la donna scese e disse in un cinese stentato, come prima: «Non dovevi ammazzarti a correre così!» E gli mise in mano due pezzi d'argento, il doppio della tariffa normale. Wang Lung capì che la donna era davvero straniera, più straniera di lui in quella città, e che dopo tutto la gente con i capelli e gli occhi neri è una razza, e la gente con i capelli e gli occhi chiari è un'altra razza. E dopo quell'episodio non si sentì più completamente straniero in città.